Benvenuti a tutti, puntata numero 14 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Iniziamo da subito con il resoconto della 3 giorni di All-Stars Game, partendo dal venerdì notte, quello che vedeva in programma il Celebrity Game e il Rising Star Challenge, con la sfida tra Team USA e Team World. Nella sfida tra celebrità, o almeno presunte tali mischiate con alcune vecchie glorie, qualche ex giocatore presente nei roster poteva giustificarne la visione, seppur gestita live con fatica, malgrado tutti i buoni propositi del mondo, anche perché si tratta sempre della notte tra il venerdì e il sabato, quella dove in un modo o nell'altro devi smaltire la stanchezza di una settimana intera. In campo c'è Oscar Schmidt, cestista brasiliano ben conosciuto in Italia dove detiene il record di punti assoluto nel nostro campionato. C'è anche Jasone Williams, che è sempre comunque un bel vedere, o comunque molto curioso da vedere, che ovviamente riesce anche a riproporre il suo ormai leggendario elbow pass. Per quel che può contare, il match si chiude 88-59 in favore dell'Est. Brandon Armstrong, che è una web star che ha fatto un po' impazzire la rete con vari video comici sugli stili di gioco dei vari campioni NBA, viene eletto MVP grazie a 16 punti e 15 rimbalzi al referto. La bella storia del match è quella del piccolo Jairus Robertson di 14 anni che lotta contro una malattia epatica, che riesce anche a segnare un canestro. Si prosegue con la sfida USA contro il resto del mondo nel Rising Star Challenge. Partiamo dalla fine, l'MVP è il rookie di Denver Jamal Murray, che inizia dalla panchina e chiude con 36 punti, 11 assist e 9 triple segnate su 14 tentativi. Onestamente è molto piacevole in questa sfida riuscire a vedere un contropiede condotto da Nikola Jokic e concluso da un Kristaps Porzingis all'interno del Team World. Un Team World che tira decisamente meglio e che si aggiudica la sfida per 150-141. Una sfida a ritmi sostenuti, farcita ovviamente da numerosi alley-oop. I giocatori del resto del mondo controllano il match più o meno continuamente, quindi il match, come era ovvio che fosse comunque, non è mai in discussione. Dalla parte degli sconfitti da segnalare Karl Anthony Towns, che è comunque uno che poteva tranquillamente stare nel roster della partita della domenica, e chiude con 24 punti e 11 rimbalzi. Degni di menzione anche un Porzingis da 24 punti e 10 rimbalzi, e un Kamieniński con 33 punti al referto, per quanto può contare, perché comunque il venerdì delle stelle, diciamoci la verità, è notoriamente abbastanza noioso. Cosa diversa dovrebbe essere il sabato, in realtà a mio avviso il sabato delle stelle quest'anno è stato molto deludente. Questo è il mio punto di vista ed è forse viziato da un'edizione piuttosto triste di una gara delle schiacciate sulla quale c'erano aspettative enormi vista la spettacolare finale dello scorso anno. Però andiamo con ordine. Il sabato dell'All-Star Game è indubbiamente il giorno più agile del weekend da guardarsi in diretta vista la struttura dinamica dell'evento con le tre competizioni previste e visto anche il fatto che malgrado l'orario il sabato sera sia più facile tirar tardi, tornare a casa più o meno a un orario giusto per potersi vedere tutto, forti anche di poter dormire la domenica mattina. Si inizia con lo Skills Challenge, una competizione che onestamente non mi ha mai entusiasmato troppo, resa però interessante nelle ultimissime edizioni dalla sfida concettuale tra lunghi e piccoli, la dimostrazione che comunque i ruoli per come li conoscevamo un tempo non esistono più, e infatti la competizione la vince Kristaps Porzingis di New York. Uno dei lati positivi che rende ulteriormente lo Skills Challenge interessante è il fatto che vi partecipino comunque giocatori di prima fascia nella Lega, per cui si conferma un Gordon Hayward in grande forma, un Isaiah Thomas che partiva super favorito, un sorprendente Nikola Jokic, sono i quattro giocatori insieme a Porzingis che si sono giocati la semifinale dello Skills. La finale è proprio tra Porzingis e Hayward e la vince il lettone dei Knicks in modo impeccabile, cioè facendo tutto al primo colpo. Considerando la situazione, tutto sommato come inizio del Saturday non è stato così malaccio. Si prosegue poi con la consueta gara del tiro da tre punti, altra gara di abilità con una struttura storicamente meritocratica, nel senso che chi ne segna di più vince, e con tanti bei nomi in competizione. Personalmente io seguivo, e l'avevo anche detto, Eric Gordon dei Rockets come potenziale outsiders del lotto. Il campione uscente Klay Thompson delude subito, uscendo all'inizio, pur non fornendo una prestazione così pessima come ad esempio ha fornito Kyle Lowry. In finale vanno Gordon, Kemba Walker e Kyrie Irving. Irving e Gordon chiudono la tornata di finale pari e così si procede attraverso lo spareggio per la vittoria. Alla meglio, il probabile sesto uomo dell'anno degli Houston Rockets, appunto, che vince di fatto 21-18. Si arriva così al piatto forte della nottata, alla gara delle schiacciate. La grande delusione che tutto sommato vanifica ogni sforzo di aver tenuto gli occhi aperti fino a quell'ora. Il grande atteso arriva in dubbio stato di forma e si tratta di Aaron Gordon di Orlando. Dopo lo scorso anno, tutti, compreso io, eravamo super eccitati rispetto a quello che avrebbe potuto mostrare in una competizione dove sembrava già vincitore designato. Invece viene eliminato subito dopo due schiacciate. La sua prima è una piuttosto noiosa, prendendo il pallone di rimbalzo lanciato da un drone. A parte la sponsorizzazione probabile del drone stesso, assolutamente niente di che. Quantomeno il drone, a mio avviso, non aggiunge assolutamente niente alla schiacciata. Tra l'altro gli servono 4 tentativi di fatto, e noi tutti pensavamo che ce ne fosse a disposizione solo 3. Uno non è stato valutato tentativo in maniera, a mio avviso, piuttosto bizzarra o faziosa da parte dei giudici. C'era l'interesse che Gordon potesse andare avanti, visto che era il nome più atteso di tutto il lotto degli schiacciatori in competizione. La sua seconda schiacciata era poi un tentativo di un 360 gradi, passandosi la palla sotto il sedere. 3 tentativi, uno peggio riuscito dell'altro. Gordon così se ne torna a casa. Non era neanche vicino, a mio avviso, allo stato di forma con cui si presentò lo scorso anno, e bastava infatti guardare il suo salto e il suo stacco da terra, piuttosto poco elevato. Peccato, comunque, ci sta che uno si prepari troppo e poi magari arrivi fuori forma al momento decisivo. Tra i restanti poi c'era il povero di Andre Jordan, che si è, a mio avviso, impegnato al massimo possibile, ma non è riuscito a esaltare nessuno dei giudici, anche giustamente, per quanto possa comunque impressionare il suo atletismo in proporzione al suo fisico e alla sua altezza. La sfida finale è quindi tra i due signori nessuno che competevano. Glenn Robinson III, che tra l'altro è figlio di Glenn Big Dog Robinson, che fu prima scelta più pagata di sempre al tempo dai Milwaukee Bucks, e Derrick Jones Jr., un ragazzino mingherlino che in NBA praticamente non ha mai giocato. Indossa la maglia dei Phoenix Suns. Ora, il miglior schiacciatore del lotto, a mio avviso, è veramente lui, ed infatti, pur concentrandosi molto su ogni tipo di variabile relativa al passarsi la palla sotto la gamba, le due più belle schiacciate della serata sono le sue. Però purtroppo sbaglia la prima in finale, spianando così la strada a Glenn Robinson. Intendiamoci, Glenn Robinson è un signor atleta che a sua volta si concentra molto sul saltare sulla testa delle persone. Per carità, tutti gesti atletici di altissimo livello, ma cose comunque più o meno già viste. Niente di emozionante. La vince lui, ma di fatto la vince la noia. Un'edizione veramente sottotono. Probabilmente ci vogliono valori più seri in competizione, e questo è un problema piuttosto annoso all'interno della gara delle schiacciate. E di fatto chiamare anche a competere due giocatori che in pratica non giocano mai nel loro team, nel loro club, è sicuramente limitante. Il momento più alto del sabato è stata la presentazione della fondazione dedicata al giornalista scomparso Craig Sager. Uno show dove giocatori in borghesi e varie celebrità vengono chiamate in campo a tirare da 3 in un minuto, se non erro. Ogni canestro sono tot soldi in beneficenza per la fondazione. Finito appunto il minuto a disposizione di tiri, viene chiamato quasi a sorpresa in campo Steph Curry. Se segna da centro campo, la fondazione si becca $500,000. Steph dichiara: ok, sì, mi servono 3 tentativi. Alla fine tira 9 volte, non ce la mette mai, una roba bizzarra. Chiaramente non è facile entrare in campo in jeans e felpa e metterla dal centrocampo, soprattutto quando 2 secondi prima magari stavi a bordo campo mezzo addormentato, visto che l'All-Star Saturday non è stato sto grande show. Di fatto però tocca al caro vecchio Shaquille O'Neal correggere il copione che prevedeva questa donazione in corso d'opera, raccogliendo il piccolo figlio di Craig Sager dal pubblico, alzandolo di peso, facendogli fare il canestro da $500,000 in una pseudo schiacciata. Insomma, anche il momento solidale, toccante, per quanto apprezzabile, per un motivo o per un altro, in questo caso per la statistica bizzarra per cui Harry non segni da centrocampo su 9 tentativi, visto che a tutti noi pare apparentemente scontato che come tira la metta. Quindi anche questo momento, in un modo o nell'altro, è finito con una puntina di amaro. Quindi un sabato delle stelle decisamente da non ricordare. Arriviamo infine all'happening della domenica, quello della partita delle stelle, quello di Est contro Ovest, la vera e propria All-Star Game. Diciamolo subito, i giocatori in campo si sono quantomeno impegnati a mantenersi sempre a distanza limitata, almeno per 3/4, per quanto al solito nessuno abbia mai provato a pensare neanche lontanamente di difendere. Infatti l'Ovest ha vinto la sfida 192-182. Schiacciate a non finire, spettacolo atletico talmente tanto elevato da risultare a tratti banale, un sacco di alley-oop battendo la palla sul tabellone, insomma niente di nuovo ovviamente. Valutiamo per un attimo le statistiche. La prima notizia è che Russell Westbrook non va in tripla doppia. La seconda è che comunque ne mette 41 con 7 triple. La terza è che non è il top scorer della partita, però, perché il ragazzo di casa, Anthony Davis, ne mette la bellezza di 52 e vince ovviamente il premio di MVP. La quarta notizia è che qualcuno però in tripla doppia ci va, ed è il non più amico di Russell Westbrook, Kevin Durant, con 21 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. A proposito di assist, Kyrie Irving ne smazza 14 con 22 punti. Ad Est c'è anche convocato Carmelo Anthony, che sostituisce Kevin Love infortunato. Ma soprattutto nelle file dell'Est c'è un super Giannis Antetokounmpo con 30 punti e, come previsto, quello che scende in campo con più voglia di stupire. Le due star rinomate, LeBron James e Steph Curry, si mantengono giustamente in basso profilo, si ritagliano i loro momenti di show per la gioia dei fans di tutto il mondo, ma non è che restano grandi giocate loro da menzionare o da ricordare. C'è pochissimo altro da dire sulla partita, perché in realtà la cosa più bella dello Star Game probabilmente sono le chiacchiere di contorno, i rumors di mercato, il fatto che comunque la NBA è al centro del mondo sportivo per un weekend e che quindi ci sono tantissime cosucce di cui parlare, tante previsioni, soprattutto in vista della deadline di mercato, che tra l'altro avverrà, se non erro, stanotte, perché noi stiamo registrando come al solito mercoledì pomeriggio, quindi in questa puntata non sentirete gli aggiornamenti delle presumibili trade che si includeranno allo scadere della deadline, e ne parleremo la settimana prossima, non c'è nient'altro da fare purtroppo. Siamo entrati tra l'altro nell'All-Star Weekend con una prima notizia di trade abbastanza interessante, una roba non da poco, perché in teoria va a rinforzare una squadra con tante aspettative che al momento sono un po' deluse, i Toronto Raptors. Serge Ibaka infatti lascia Orlando, e c'era arrivato quest'estate, e se ne va appunto a Toronto accanto a Kyle Lowry e a DeMar DeRozan. In cambio i Magic si prendono Terrence Ross, che per la verità è un ottimo sesto uomo per i Raptors, o perlomeno era un primo colpetto di mercato, che però in realtà è impallidito di fronte alla bomba avvenuta ufficialmente poche ore dopo che Anthony Davis ha alzato il premio di MVP della partita delle stelle. Infatti, se guardiamo i tabellini del match, notiamo l'assenza effettiva di uno dei protagonisti della stagione. L'antefatto infatti narra che DeMarcus Cousins si è giunto a New Orleans chiedendo a Steve Kerr, che era l'allenatore dell'Ovest, di non giocare troppo perché è acciaccato. Infatti, DeMarcus Cousins gioca soltanto 2 minuti. Ai giornalisti che lo intervistano dichiara di voler essere lasciato in pace, di non voler parlare dei rumors di mercato, di voler restare tranquillo. Tutto bene quindi, 2 minuti in campo, probabile doccia e poi prevedibilmente via verso l'aeroporto per tornarsene a Sacramento. E invece no, DeMarcus Cousins quell'aereo non lo prende, anzi, probabilmente si mette a cercare una sistemazione in città, quantomeno fino a giugno. Infatti, l'ex centro di Sacramento Kings viene ceduto ai Pelicans, restando così fisicamente a New Orleans e andando a formare una coppia sotto canestro terrificante proprio con Anthony Davis, qualcosa di potenzialmente devastante, augurandosi ovviamente che Cousins possa lavorare e mantenere il suo equilibrio mentale prima ancora di trovare un'intesa tattica con colui che al momento è il padrone assoluto dei Pelicans. Insieme a Cousins approda ai Pelicans anche Omri Kasipi. In cambio vanno dall'altra parte ovviamente a Sacramento Buddy Hield, Tyreek Evans, Langston Galloway, una prima scelta del 2017 protetta top 3 e una seconda scelta di Philadelphia. Sicuramente a partire da oggi guardare una partita del New Orleans avrà sicuramente un valore diverso, perché si vedono due Twin Towers moderne come Cousins e Davis, che saranno capaci malgrado la stazza, e sono capaci malgrado la stazza, di giocare potenzialmente in tutti i ruoli, di correre, di passare e contemporaneamente di far valere la loro presenza sotto i tabelloni. Sarà indubbiamente interessante anche pensando che se Mike Cousins restasse ai Pelicans alla fine della stagione, con alcuni accorgimenti i Pelicans avrebbero anche la prospettiva di diventare una bella alternativa ai Golden State Warriors Ovest, anche perché avrebbero sotto i tabelloni i due big men capaci però anche di giocare fuori, come abbiamo appena detto, che Golden State per struttura di squadra non ha. Quindi potrebbero davvero diventare gli anti-Warriors, staremo a vedere, intanto dobbiamo iniziare a vederli giocare insieme questi due e iniziare a capire se i Pelicans vogliono davvero investire sulla franchigia per poter sperare di raggiungere dei risultati che fino ad oggi non hanno mai raggiunto, quindi andare avanti nei playoff. Due parole a conclusione dello Star Weekend, si leggono ovviamente tanti pareri sulla struttura noiosa e piuttosto poco interessante del Weekend delle Stelle. È chiaro che stia perdendo anche quel minimo di appeal che poteva avere sugli avventori novizi della Lega, per i quali in teoria doveva rappresentare una vetrina di spettacolo attraverso la quale iniziare a avvicinarsi all'NBA. Questo ovviamente aveva un senso tremendo fino alla fine degli anni 80, dove la Lega era piena di rivalità che utilizzavano questa sfida e questo momento sotto i riflettori, questo palcoscenico, per sfidarsi e per mostrarsi al resto del mondo. A partire dagli anni 90, con il boom commerciale dell'NBA che ha iniziato a conquistare letteralmente il mondo, la partita ha perso un po' di agonismo, ma restava comunque una vetrina interessante da un punto di vista principalmente di sponsorizzazioni, anche da parte dei giocatori stessi verso i mercati in espansione, in quel caso si parlava dei mercati orientali. A partire dal 2000, e diciamo dall'arrivo più o meno della Lega di Yao Ming, è iniziato il progressivo degrado, perché comunque mercati orientali conquistati, il prodotto viene spalmato forzatamente in 3 giorni, il venerdì è tutto sommato inutile. Il sabato è comunque un terno all'otto rispetto al fatto che accada qualcosa di degno a livello di menzione, e la domenica pare che non interessi praticamente più a nessuno, in primis ai giocatori stessi, che tanto sono già ipersponsorizzati, iperpagati, iperconosciuti in tutto il mondo e non hanno nessun motivo per evidenziare qui eventuali rivalità personali, ammesso che nell'NBA di oggi esistano rivalità personali come potevano esistere ai tempi di Isaiah Thomas, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan della prima ora, eccetera eccetera, quelli che citiamo sempre. Diciamolo subito, l'idea ad esempio di un rookie game avuta al tempo negli anni 90 non era un'idea pessima. Evolverlo per trasformarlo nella sfida USA contro il resto del mondo non era un'idea pessima. Purtroppo però è incontrollabile il livello eventuale di impegno che i giocatori possono metterci, ugualmente quello agonistico, e comunque va di pari passo con la partita della domenica dei grandi. Quindi se loro dovessero dare anche il buon esempio, non lo stanno assolutamente dando. Lo stesso vale per le competizioni. L'aggiunta, a mio avviso forzata, dello skills si è trasformata nella competizione forse più interessante. La gara di tiro da tre è l'unica che mantiene un minimo di fascino, comunque resta lì, perché è una roba che c'è sempre stata, ma quantomeno ha delle partecipazioni di livello. La gara delle schiacciate si trova quest'anno, dopo la deludente edizione, di nuovo a mio avviso a un bivio, per il quale ci si deve domandare per quale ragione tendenzialmente ci partecipano giocatori non di prima fascia. E come si può risolvere tutto questo? Probabilmente in nessun modo, perché comunque da un punto di vista di marketing l'NBA vende di brutto anche questo prodotto, che è piuttosto scrauso e poco interessante. E quindi se tutti riscuotono un sacco di soldi, tutti sono contenti alla fine dei conti, probabilmente tutti meno che noi la guardiamo. Si potrebbe pensare, rispetto alla partita della domenica, ad aumentare il numero di giocatori per roster e togliere così anche le polemiche dei convocati e non convocati, a diminuirne il tempo proprio fisico della partita per evitare punteggi che flirtano con i 200 punti per squadra, che sono a mio avviso scandalosi a livello proprio concettuale, magari aggiungendo in parallelo alla partita delle mini competizioni simili quelle del sabato, replicate però tra le star della domenica. Finalmente così vedremo magari LeBron James in una gara delle schiacciate, però tutto questo ovviamente toglierebbe il poco appeal già rimasto al Saturday. Si potrebbe trasformare la partita in una sfida tra Rising Stars contro All Stars e creare quindi quel formato vecchi contro giovani, magari agevolando così forse l'unica speranza per un barlume di agonismo nella vecchia sfida tra generazioni. Il problema è che però in questo caso scomparirebbe la struttura della partita della domenica, che è comunque un'istituzione storica per la Lega, è una struttura conosciuta dalla notte dei tempi, questa è la 66esima edizione se non erro. In realtà quindi, come ripeto, dobbiamo accettare che questo weekend sia tutto meno che basket, e che fino a quando la Lega non valuterà di fare un'inversione di tendenza in termini di vendita del prodotto, che ripeto comunque a livello di All-Star Game evidentemente continua a funzionare, il formato non sarà destinato a cambiare. L'unico cruccio è che ci tocca parlarne quasi forzatamente, come accade in questa trasmissione, in questa nostra puntata, nella settimana in cui appunto l'All-Star Game si compie, visto che la stagione comunque sta giustamente in pausa per qualche giorno e che riprenderanno a giocare non fino a domani l'altro, se non erro. Quindi niente, questa è una puntata piuttosto fine a se stessa, perché c'era poco da dire rispetto allo Star Game. Purtroppo il mercato, la deadline avverrà nelle prossime ore, e noi comunque stiamo registrando, appunto, ripeto, di mercoledì, e quindi non possiamo aggiornarci. C'è un aggiornamento rapido di mercato, in realtà avvenuto stanotte. Lou Williams lascia Los Angeles Lakers per Houston, che si prendono Corey Brewer e una prima scelta. Si tratta della prima mossa di Magic Johnson da presidente della squadra, cosa avvenuta anche questa immediatamente dopo la chiusura del weekend delle stelle. Il signor Lou Williams non è un giocatore da poco, anche perché in questa stagione nei derelitti Lakers, chiamiamoli così, o quantomeno negli sperimentalissimi Lakers, sta viaggiando comunque ad una media di 18.6 punti per gara. Corey Brewer a 4 punti a partita di media, però comunque Lou Williams probabilmente può aggiungere dei valori importanti a Houston anche in chiave playoff. Ci sono tantissimi rumors, si parla di una cessione di Paul George, si parla di Jimmy Butler che è sul mercato, oggi sembra che no, c'è sempre la solita telenovela rispetto a Carmelo Anthony, c'è Derrick Rose che sembra possa lasciare già da subito New York. Insomma, ci sono tantissimi rumors in giro, ci sono tantissime prospettive di scambi anche molto interessanti, soprattutto in chiave finale di stagione, quantomeno seconda metà di stagione. Staremo a vedere, ne parleremo la prossima settimana sicuramente, perché appunto al momento gli unici tre scambi importanti che conosciamo sono appunto il passaggio di Serge Ibaka a Toronto, il passaggio di Lou Williams a Houston e il già detto passaggio di Marcus Cousins ai Pelicans. Comunque sono riuscito a parlare quasi 20 minuti anche oggi, per cui tutto a posto, ci sentiamo la prossima settimana. Al solito questa puntata, come tutte le settimane, la potete ascoltare alle 21.30 tutti i giovedì sera nel flusso streaming di Radio Big World, dalla mattina seguente la troverete in podcast in SoundCloud di Radio Big World e su YouTube, ospitata e impreziosita dalle immagini messe da Belli13 nel suo canale YouTube. Grazie per l'ascolto, spero vi anticipo la prossima settimana di portarvi una piccolissima sorpresa. Vediamo quello che succede, non vi voglio anticipare nulla perché magari porto male. Ci sentiamo la settimana prossima, grazie ancora per l'ascolto, grazie ancora da NBA Week.